Cialtroni nello spazio. L'attimo di approfondimento informatico, tecnologico, culturale di Radio Onda d'Urto. Un attimo che dura circa 40 minuti tutti i mercoledì alle 12.40 sulle nostre frequenze. Ma io l'ho imparata così, mi viene sempre l'attimo e quindi lo facciamo l'attimo. Benissimo, dallo studio siamo qui, io, Marco, Alessandro, saluta. Ciao. E Francesco, e in più virtualmente non presente ma comunque sempre utili i suoi suggerimenti, i suoi contributi, Carlos, che salutiamo subito. Ciao Carletto. Sono tanti gli argomenti che potremmo affrontare oggi, esatto. Anzi che affronteremo. Partiamo al volo senza fare la scaletta o così? Facciamo una mini scaletta? Annunciamo che dopo una serie di news parleremo anche di un paio di videogiochi compatibili anche con Linux. Ci sarà come al solito un po' di musica in licenza Creative Commons che sarà possibile che vi segnaleremo. Il gruppo polacco di oggi devo dire che è veramente intrigante. Non ci chiediamo come hai fatto a trovarlo. E per il resto, sì, dai, partiamo con un po' di news così al volo. Partirei con quella al volo che è finita anche sulle prime pagine di molti quotidiani. Il New York Times ha annunciato che tra 5 anni potrebbe essere solo via web. Questo ve lo diciamo così al volo perché non è una delle nostre chicche che andiamo a scovare negli angoli più remoti della rete. Questa era finita anche in prima pagina su molti quotidiani, però sicuramente non è indifferente il fatto che 10 anni dopo l'ingresso del suo giornale sul web, l'editore del New York Times, Arthur Rocks Sulzberger, fa il funerale della carta stampata. Ha detto che davvero non sa se fra 5 anni il New York Times sarà stampato ancora su carta. I costi della carta sono enormi, l'inquinamento da questo punto di vista sicuramente. Quello che ha annunciato è che comunque non sarà sicuramente un giornale senza redazione, ma semplicemente ci sarà un'integrazione totale tra quella che è la redazione di oggi e quella che potrebbe essere la redazione del domani, con un giornale che potrebbe essere solo via web. E effettivamente, anche guardando le tecnologie portatili, dei media portatili, quindi cellulari o comunque piccoli computer portatili o cose del genere, e la possibilità di essere sempre connessi a internet, potrebbe far pensare che anche per i pendolari, classico di andare in stazione a comprare il giornale prima di prendere il treno, esatto, non sarà più potrebbe necessario cambiare un po' e potrebbe cambiare, ma questi sono solo scenari futuribili, anche se sicuramente il fatto che l'abbia detto il giornale più importante del mondo, probabilmente il New York Times, fa riflettere. Altre news invece, bene, un po' più passiamo su sconosciute. Su questa simpatica news di questo preside di una scuola russa. Simpatica mica tanto per il signor preside di questa scuola russa, però vabbè, andiamo a... La notizia è che questo simpatico preside, non so, mi viene da dargli del simpatico, aveva deciso di, per la sua scuola, di risparmiare e di non comprare nessuna licenza di Microsoft Windows originale e di mettere invece tutto software copiato e piratato sulle sue macchine. Bene, sono arrivati dei poliziotti hanno deciso che il signor preside era un po' colpevole di pirateria informatica e l'hanno cacciato ai lavori forzati in una prigione della Siberia. Che fa un po'... fa un po' cosa di altri tempi. Esatto. Insomma, questa cosa ha mandato... 5 anni. 5 anni di carcere. 5 esatto. Anni? No. 5. Lavori forzati. Non è come dirlo, ti mando in Siberia. Cioè, lì è successo davvero. È successo davvero. E questa cosa ha mandato un po' nel panico tutte le scuole russe, in quanto la pirateria è una oramai istituzionalizzata in Russia. Un po' come in Bulgaria. Come in Bulgaria, dove diciamo hanno grossi problemi a comprare l'hardware addirittura, per cui il software che oramai ha dei prezzi paragonabili all'hardware... diventa un costo proibitivo appunto per creare laboratori informatici e quant'altro. Vabbè, la cosa carina di questa notizia è che però appunto il ministro dell'educazione Nikolai Karpushin ha deciso che non compreranno più alcun software originale dalla Microsoft e anzi si convertiranno completamente al software libero utilizzando distribuzioni appositamente tradotte in russo di Linux appunto, utilizzando versioni di open office localizzate in russo e utilizzando un altro Ruski Office, che non so cosa possa essere, non ho mai sentito parlare. E quindi questo, questa che era, poteva essere una vittoria dal punto di vista legale della Microsoft, si è trasformata invece in una caporetto, almeno per quanto riguarda la Russia, e probabilmente verrà seguita dalle altre nazioni dell'est europeo. Beh, insomma, prevenire è meglio che curare. Se non volete finire in Siberia, potete abbandonare Microsoft e installarvi Linux fin da subito, senza aspettare che sia zio Bill e la polizia a costringervi a farlo con delle grandissime multe. Una nota soltanto: il premio Nobel per la pace Gorbaciov ha appunto chiesto a Bill Gates di ritornare, di intercedere per far liberare questo povero preside. Bill Gates dice che la questione non lo riguarda e niente, vediamo come andrà a finire. Pare che la palla sia rimbalzata al rappresentante della Microsoft in Europa, che è anche quello della Microsoft in Italia, e vedremo un po' come andrà a finire. Cioè, nel senso, la cosa è visibilmente sproporzionata, nel senso che 5 anni di lavori forzati per la pirateria software senza scopo di lucro, perché parliamo sempre di quello, è un po' eccessiva. Verrebbe da pensare un po' ai dirigenti delle pubbliche amministrazioni italiane, che assolutamente non sanno nulla di come si gestiscano il copyright dei software, diciamo. Soffrono un po' della faciloneria italiana, e che insomma si installano un po' quello che capita. Cosa succederebbe? Abbiamo la fortuna che non abbiamo la Siberia. Beh, ma dalla Siberia alla galera il passo è breve, viene proprio da dire, perché negli Stati Uniti, perché abbiamo la che... Babbagia no. No, negli Stati Uniti c'è finito in galera per 169 giorni Josh Wolf, la notizia di qualche giorno fa, quindi probabilmente sono già stati superati 175 giorni. Di Josh Wolf, febbraio in... 70. 6 febbraio, quindi vabbè, fai tu il conto che sei un ingegnere, io no. E, e insomma, è lui che si traveste da ingegnere. Vabbè, cosa avrà mai fatto Josh Wolf per farsi 6 mesi di carcere negli Stati Uniti a San Francisco, che era considerata una città anche abbastanza liberale? Si è rifiutato di... lui è un giornalista, e si è rifiutato di dare alla polizia, anzi no, scusate, all'FBI, non è chiaro almeno chi gliele abbia chiesti. Comunque la corte di San Francisco vuole tutto il materiale che riguarda una manifestazione che si era tenuta contro il G8 nel Mission District di San Francisco nel 2005. Ricordiamo, il G8 non si stava tenendo negli Stati Uniti, ma si stava tenendo in Scozia. Comunque c'erano state delle manifestazioni anche negli Stati Uniti. Durante queste manifestazioni un poliziotto si era fatto un po' male, era rimasto ferito, e adesso vogliono che questo blogger, giornalista freelance, consegni tutto il materiale che ha filmato. E quello che gli stanno facendo, cioè insomma, per spingerlo a dare tutto questo materiale, l'hanno rinchiuso al gabbio, come si suol dire, ed è lì da 175 giorni più o meno. È il triste record di essere il giornalista che per più tempo è stato in carcere per mancata collaborazione, in sostanza, perché non ha commesso nessun reato se non quello di non collaborare con le forze dell'ordine. E è un grosso caso, è una campagna per la sua liberazione. In particolare, vabbè, la giurisprudenza statunitense prevede che, appunto, rispetto al grand jury che si occupa dei reati federali, ci sia appunto la possibilità di recludere persone che non collaborano con le forze dell'ordine. Il caso particolare è di Wolf, è che essendo un giornalista freelance, quindi non godendo della protezione corporativa dei giornalisti, non gode nemmeno sostanzialmente del diritto di cronaca e anche della riservatezza delle fonti. Infatti la questione è proprio questa: la giustizia californiana vuole permettere all'FBI di raccogliere informazioni per la polizia locale con tutti i mezzi, pescando quindi anche fra i dimostranti e mettendo molto in seria difficoltà la stampa indipendente. Secondo un'opinione condivisa fuori dal palazzo, i giornalisti non devono invece essere cooptati come se fossero un braccio della legge. La notizia noi l'abbiamo pescata da Punto Informatico. andiamo a parlare invece di un'altra sentenza. Allora, è uscita la sentenza riguardo al caso di Indy Media. Ricorderete, ne avevamo parlato anche noi l'anno passato. E dunque, quella in cui era stata pubblicata anonimamente una fotografia del Papa con in vesti naziste, se non erro. Esatto, sì, si trattava di un'immagine, una caricatura del Papa che aveva portato la Procura della Repubblica di Roma a chiedere sequestro di Rackspace, la rogatoria internazionale presso la magistratura brasiliana per insomma analizzare il server di Indy Media e sequestrarlo. Dunque, sempre la Procura della Repubblica di Roma ha chiesto al giudice di archiviare il caso fondato sull'ipotesi di reato di vilipendio di confessione religiosa, e stupisce la motivazione. La motivazione è che è impossibile risalire a chi ha pubblicato la notizia, e quindi di fatto non riconosce il diritto di satira o comunque nel senso dell'immagine, che era insomma di un certo tipo, insomma abbastanza innocua. Riconosce solo che, non essendo stato possibile risalire al pubblicista, non è possibile ascrivere a nessuno questo reato, e quindi va archiviato. Beh, meno male che Indy Media non tiene le registrazioni delle pubblicazioni, sennò qualcuno si sarebbe trovato a rispondere di questo reato. Reato, tra virgolette, no? Eh sì, motivo in più per sostenere la pubblicazione anonima a questo punto, visto che pubblicare un'immagine di satira può diventare un reato. Beh, allora ben venga la pubblicazione anonima. Beh, però anche una bella vittoria di Indy Media del suo sistema di pubblicazione, questo. Eh sì, mi sa che farà riflettere un po' sulla riflessione che si sta facendo per Indy Media 2. Saltiamo un attimo a parlare di giochi, ne riparleremo tra un attimo. In particolare ci sono due notizie abbastanza simpatiche. La prima è che qualcuno si è preso la briga di fare un benchmark, ovvero un confronto tra le prestazioni di alcuni giochi, facendo girare lo stesso gioco sia sotto Linux che sotto Windows Vista. Sì, ok. E il risultato, famigerato Windows Vista. Famigerato Windows Vista. E i risultati sono stati inaspettati. Infatti, tutti si aspettavano che Vista potesse vincere alla grande la battaglia. Invece, Linux ha battuto in due test su tre abbondantemente battuto appunto il nuovissimo sistema operativo di casa Microsoft. E la cosa ha stupito, soprattutto perché in generale il supporto di Windows per le tecnologie, diciamo, di accelerazione non è mai stato fino a poco tempo fa non è mai stato eccezionale. Di Linux, vuoi dire? Di Linux, sì. Quello di Windows è sempre stato un po' più performante. La nuova versione invece perde simpaticamente questo primato. E invece va appunto in primato al sistema Linux con e qualcuno ha cominciato anche a lamentarsi, perché giusto è stato fatto su macchine potenti o su degli scartini che non riuscivano a reggere? No, si parla PC Intel Core 2 Duo 6004 a 2 GHz 13, 2 GB di memoria e schedati Radeon X850 XT PCI Express 16x. Cioè, wow. Macchine insomma non di vecchia generazione, non so, qualche migliaio. Sì, non il top della gamma, comunque insomma una macchina che uno si può comprare appunto a circa 1.500 euro, circa, insomma. Poi secondo te, insomma, non hardware vecchio datato, no. Che poteva magari giustificare il fatto che le risorse di sistema esose di Windows Vista potessero avere rallentato le prestazioni del gioco. E come dicevamo, qualcuno ha cominciato anche a lamentarsi. Infatti le notizie di questi giorni, il probabile inizio di un'azione di classe negli Stati Uniti contro l'Nvidia, che è uno dei più grossi produttori di schede video assieme alla ATI. Perché a quanto pare i suoi driver, a quanto pare come hanno riscontrato senza molti utenti, senza alcun dubbio i driver appunto della Nvidia hanno dei grossi problemi a funzionare con Windows Vista. Esatto, nonostante le plurime certificazioni, bolline di qua e di là, insomma questi driver, queste schede su Windows Vista funzionano molto male. Tanto da uno riuscire a far girare titoli di videogiochi in commercio oppure di farli girare con estrema lentezza. E cosa più sorprendente è che questi stessi titoli funzionavano discretamente, insomma comunque funzionavano bene con Windows XP o i precedenti driver dell'Nvidia. Ma la colpa sarà di Nvidia o di Microsoft? In realtà la cosa che ha fatto incazzare molto gli utenti è stato l'approccio di Nvidia, che ha deciso semplicemente di cercare di nascondere i problemi, quindi andando a rimuovere dei forum, dai forum appunto dell'Nvidia, quegli utenti che appunto dicevano: ma io ho questo problema con questo gioco, questa cosa non funziona, e quelli semplicemente cancellavano tutto il thread e facevano finta che niente fosse successo, fino a quando qualcuno ha aperto un nuovo sito, Nvidia Class Action, da cui hanno cominciato a documentarsi seriamente sul tipo di problemi, hanno visto che tutti avevano gli stessi problemi con gli stessi driver e da qui hanno deciso appunto di partire nell'azione legale contro appunto la ditta produttrice di schede video, la Nvidia. Questa cosa però dei driver per Windows Vista è un po' comprensibile. Windows Vista ha un sacco di richieste di criptazione, di protezione dei dati e quant'altro. Windows Vista integra all'interno il sistema di Digital Rights Management, ovvero di controllo dei contenuti copyrightati, utilizza dei protocolli per impedire la fruizione dei contenuti copyrightati su periferiche digitali come l'HDCP, la scheda video deve accorgersi se è attaccata a un monitor digitale, in quel caso deve disabilitare l'uscita o abilitarla a una risoluzione più bassa. Insomma, un sacco di limitazioni che sono implementate in parte nell'hardware della scheda e in parte nel software, e quindi queste limitazioni devono essere implementate poi nei driver finali, che devono andare a testare un sacco di robe, quindi devono diventare decisamente molto più complessi rispetto ai driver di una versione precedente di Windows. E tra l'altro notiamo che questi driver hanno dei costi notevolmente superiori di quelli precedenti, e tutti questi costi vengono poi alla fine scaricati sugli utenti che si comprano le schede. Non solo, si comprano delle cose e guarda caso questi driver complicati vengono rilasciati giusto una settimana prima del rilascio ufficiale di Windows Vista. E puzza molto di uscita prematura, insomma. Doveva uscire Windows Vista, avevano già preparato tutte le cose bollinate, Vista prepared, no, com'era? Tutto alla macchina del marketing di Microsoft e di conseguenza delle varie aziende leader nel settore dell'informatica, erano già perfettamente in moto. Il problema era la sostanza, sia il sistema operativo sia i driver non erano pronti, non erano efficienti. Però intanto questo è finito sul mercato e comunque gli utenti con una buona campagna di marketing comprano tutto. Però a volte gli utenti anche si incazzano. Hasta la vista, Microsoft. Don't hold back. Don't hold back. Facciamo uno stacco musicale. Alessandro, cosa ci proponi oggi? Avevamo già brevemente annunciato durante l'introduzione di oggi che gruppo sì, di... siamo andati su Yamendo come al solito, insomma vabbè, fallo partire, tanto ha un intro abbastanza lungo. Ah giusto, buono. E cercavamo della musica folk e ci siamo imbattuti in un gruppo polacco. Ah, quindi mi ha detto, beh, per forza, è un gruppo polacco, chi l'ha mai sentito? Allora, si chiamano Zi Violak. Sì, non è ancora partito. È partita, è lui che sta tenendo sotto anche Chemical Brothers Remixed. Il titolo dell'album è The Book, scritto di YBUK, e il titolo della canzone è il medesimo. Wow. Thank you. chadzę do mnie Jasiu, a ja go czekałam. Chadzę do mnie Jasiu, a ja go czekałam. Witałam go w ciemną noc, z ranka wyganiałam. Witałam go w ciemną noc, z ranka wyganiałam. Dziecko lodowate stoi, bo pod lasem łypie wokół okiem krwawo ze zobaty. Nie zobaczy kochanekę, biegnie jak koń rączy. Tego, kto pieszczotami dzisiaj go uraczy. Precisamente un gruppo curioso, ripeti un po' il nome, Ale, che da qua non vedo. Zviolak. Zviolak, Z-Y-V-O-L-A-K. Vabbè, stiamo parlando di schede grafiche, di prestazioni di Linux, prestazioni che riguardano un po' anche il mondo dei videogiochi. E tu, Alessandro, avevi un paio di segnalazioni da farci a tal proposito. Allora, sì, alcuni utilizzano il computer anche per giocare, tanti, però effettivamente sotto Linux, dai, che abbiamo tutti iniziato così, non tirartela un mondo adesso. Sì, beh, è chiaro, esiste un mondo di videogiochi sotto Linux, alcuni fatti meglio, alcuni fatti peggio, insomma ce n'è un po' di tutti i tipi. La cosa più interessante sono spesso le idee di alcuni giochi, sono innovativi anche se magari le rese grafiche non sono il massimo. Un sito di riferimento per cominciare a vedere un po' di questi giochi è www.happypenguin.org, scritto con la H, happy, e vuol dire pinguino felice. E felice. Ci sono tutte le un minimo di recensioni, quindi una valutazione, una descrizione del tipo di gioco, uno screenshot, quindi un'immagine, e i link per collegarsi al sito principale. E segnaliamo uno di quelli che abbiamo trovato, che è un gioco di biliardo fatto piuttosto bene, con un'ottima grafica. È la cosa più innovativa del mondo, perché giochi di biliardo ne esistono da almeno 30 anni nel mondo del computer, però insomma. Bene, questa è una bellissima grafica, carino, 3D, la possibilità di tirare, colpire la palla in 10.000 modi diversi, angolazione della stecca, effetto, quant'altro. È un gioco molto carino. Ciò si traduce con Marco che schiaccia le frecce a caso e lancia la pallina, però va bene. Beh, ovviamente basta sempre tirare il più forte possibile, qualcosa va in buca. Ale ci guarda sempre più perplesso. Comunque, forse non abbiamo fatto una grandissima pubblicità in effetti a questo gioco. Comunque. Non siamo molto bravi a giocare a biliardo, forse. Ah, tu non sarai bravo a giocare a biliardo. No, al di là di tutto, comunque, questo era per quanto riguarda il primo Fulliard. Fobillard. Fobillard. Scritto F-O-B-L-L-A-R-D. No, la cosa più interessante è proprio che è la dimostrazione che anche sotto Linux è possibile fare dei giochi con delle grafiche accattivanti. Accattivanti, con una buona resa. Esistono anche tipo giochi di scacchi, eccetera. È chiaro che questi sono quelli. Giochi di scacchi in cui gli scacchi si massacrano tra di loro, nel vero senso, è abbastanza sì, splatter. Esatto, che si chiama Brutal Chess. O Cheese, no, Cheese. Come formaggio? Vabbè, Brutal Scacchi in inglese. Brutal Scacchi, esatto. Brutal Scacchi. E, no, è chiaro che vengono realizzati questi perché sono sempre software open source, generalmente sviluppati da una, due, tre, un gruppo di persone, comunque non grandi pool come quelli delle grandi aziende che producono videogiochi. Su cui lavorano anni e anni e anni. Esatto, sì, insomma ci sono delle differenze, però insomma, le rese possono essere buone e anche un incentivo per queste case software a sviluppare il loro software anche per Linux. Poi decideranno loro se farlo proprietario o meno, però è chiaro. Ad esempio Neverwinter Nights, che è un titolo molto famoso nei videogiochi, è stato prodotto anche per Linux con delle ottime rese. Vabbè, siamo quasi in chiusura, se non sbaglio dovremmo aver superato siamo quasi a mezz'ora di trasmissione. Allora, no, volevo parlare di questo articolo perché è abbastanza importante. Va bene, allora, va bene, avevamo parlato un po' la settimana scorsa a proposito della Svezia, dove veniva vietata appunto la vendita degli iPod, perché appunto non garantivano la possibilità agli utenti di utilizzare su formati diversi, su apparecchiatura diversa dall'iPod, i file multimediali comprati dal sito della Apple, appunto, dal sistema iTunes. La risposta di Steve Jobs non si è fatta aspettare. Appunto, il 6 febbraio ha pubblicato un memoriale, un editoriale, non so come chiamarlo, sul sito appunto della Apple, e in cui cerca di darci la sua visione, la visione della Apple su quanto appunto riguarda la musica. Lui parte dicendo già subito che cerca un po' di fare la vittima, dicendo che le grandi case discografiche, ovvero la Universal, la Sony BMG, la Warner, la EMI, che da solo tengono il 70% del mercato, li hanno obbligati per poter appunto vendere la musica su internet, a distribuire dei file che fossero appunto protetti e che no, appunto non potessero venire illegalmente copiati. E appunto la risposta della Apple è stata quella di creare un sistema DRM che appunto permettesse soltanto su delle periferiche autorizzate il funzionamento appunto di questa musica. appunto parla un po' del loro sistema fair play, e a questo punto dice, dato che un sacco di gente si sta lamentando su questi sistemi DRM, qual è appunto la visione della Apple, e dice che fondamentalmente si trovano di fronte a tre strade. La prima è quella di continuare in questa modalità concorrente dove la iTunes vende la musica che può funzionare soltanto sull'iPod, la Microsoft vende musica che può funzionare soltanto sul suo Zune, la Sony vende musica che può funzionare soltanto sulla sua piattaforma hardware, che adesso non so quale sia. E insomma, tutti funzionano a questo modo, e se tu hai comprato una canzone dal sito della Microsoft non lo puoi utilizzare sull'iPod o su un altro player, la stessa cosa viceversa, se compri qualcosa dal sito della Apple non puoi comprarlo sul player della Sony e quant'altro. Sì, non c'è interoperatività. Non c'è interoperatività, insomma, tra le cose. Però poi lui dice, comincia a sparare fuori delle statistiche, appunto, per dimostrarci che in realtà questo non è un problema, perché dice, noi abbiamo venduto 90 milioni di iPod e abbiamo venduto 2 miliardi di canzoni attraverso il sistema di iTunes. Poi fa una stima che dice più o meno un iPod tiene 1000 canzoni, quindi facendo il conto sono 22 canzoni comprate attraverso iTunes su 1000, quindi soltanto il 3% della musica che gira sugli iPod è appunto coperto da sistemi di DRM, e quindi non è un grande problema per coloro, cioè avere il 3% della propria musica bloccato in una piattaforma hardware come potrebbe essere l'iPod. Questo è un bellissimo ragionamento, però vabbè, con le statistiche, se facessimo una statistica sulla media del nostro pianeta, tutti noi dovremmo avere un testicolo e una tetta, invece la cosa è un po' diversa. E questa battuta è l'angolo delle massime di Marco. Te ne assumi la responsabilità, l'hai detta tu, bellissimo, Marco. È bellissimo. Non è stata decisa preventivamente dalla redazione di Shutter. E appunto, invece, quando qualcuno si è comprato un po' più di canzoni e quant'altro, il fatto di non poterle poi più esportare verso un altro sistema può diventare abbastanza gravoso e può obbligare questa persona a utilizzare soltanto quei sistemi. La seconda alternativa, appunto, di Apple dice che potrebbe essere quella di licenziare, cioè permettere ad altri di utilizzare il loro sistema di DRM. Però anche qua Steve Jobs si piange un po' addosso e dice che comunque questi sono sistemi che funzionano appunto perché viene mantenuta dei dati segreti, e se dovessero licenziare ad altri questo sistema di criptazione dei dati, ci sarebbe qualcuno che probabilmente lo va a pubblicare su qualche sito, sarebbe una gravissima perdita per la Apple, che dovrebbe intervenire su tutto il software distribuito, magari anche sull'hardware, per riparare appunto questa perdita di sicurezza e perdita di dati e quant'altro. Insomma, dice che è una strada secondo loro non assolutamente fattibile. La terza strada, dice, è quella invece di abolire completamente i DRM. E lui dice, già adesso le case discografiche vendono un sacco di CD che non sono protetti da appunto alcun sistema di DRM. La gran parte della musica venduta è su formato CD e non è in formato elettronico, e quindi dice, secondo lui, le case discografiche potrebbero appunto semplicemente smettere di pretendere i sistemi DRM e permettere a tutti la vendita di canzoni senza appunto senza appunto criptazioni che impediscano l'interoperabilità appunto di questi file scaricati. Il problema in questo caso è che qualcuno gli fa notare subito, gli ha fatto notare, vabbè, non ovviamente su questo sito ma altrove, che la stessa Apple però si è sempre rifiutata di vendere dei sistemi, cioè vendere della musica non protetta dal DRM, quindi libera, anche quando la casa discografica stessa avesse appunto chiaramente detto che non gli interessava la vendita di via DRM, ma anzi in questi casi la Apple ha sempre preteso che il DRM fosse presente in ogni canzone che ha venduto. Quindi non lo so, l'articolo è abbastanza bello, però ci lascia decisamente un po' di dubbi sulla visione della Apple, e mi sembra proprio un articolo messo lì come a dire, noi della Apple siamo buoni e gli svedesi sono cattivi perché non ci fanno più vendere gli iPod nella loro nazione. Beh, ma tra l'altro nessuno ha imposto alla Apple, ha detto che la Apple deve vendere musica, insomma se l'ha scelto lei come business. No, perché questo qua è sintomatico, nel senso che un'azienda che produce software, che produce o comunque che vende hardware di un certo tipo, che cioè, copre una fetta non enorme ma comunque considerevole del mercato, perché decide di vendere contenuti? Insomma, non era il suo mestiere, che cosa gliene frega? Il DRM serve proprio a garantire che chi acquista l'hardware marchiato Apple, che è fatto bene, cioè è venduto bene, ha un bel contenuto, insomma serve a garantire alla Apple che la vendita dell'hardware corrisponda anche a vendita di contenuti. Perché comunque l'utilizzare iTunes è un veicolo di vendita sostanzialmente, prima ancora che un software per la gestione dell'iPod, anche se Jobs insomma la vuole rigirare alla sua maniera, e questo è l'obiettivo, perché fanno sistemi DRM che non interagiscono tra loro, ma perché la conquista del mercato dell'hardware è anche conquista della vendita dei contenuti, su cui c'è il maggiore guadagno. Tra l'altro si può tornare tranquillamente indietro di 25-30 anni per vedere come la Apple non era già all'epoca per l'interoperabilità dell'hardware, e ha sempre costruito hardware che non era compatibile con il resto dei computer. Quindi beh, questa forse è stata la sua fortuna. Sì, no, è stata sicuramente da un certo punto di vista la sua fortuna, però è anche un tipo di politica che porta avanti fino alla nascita. Cioè, ma tutti, come anche Microsoft d'altronde, la differenza è che Microsoft è diventata talmente potente che ha costretto gli altri ad inseguirla. La Apple ha sempre vissuto un po' nel suo mondo, la sua piccola nicchia, che ha difeso sempre piuttosto bene, però si tratta però sempre caso, di sua, tecniche di business. La sua piccola nicchia è appunto diventata l'iTunes, che insomma che invece è una fetta grossa del mercato, sì, dei lettori, nicchia portati. Di centinaia di milioni di persone. In chiusura, visto che siamo anche un po' in ritardo, segnaliamo soltanto che c'è stato un aggiornamento rispetto all'azione della SIAE con... No, non far partire la sigla, lo finiamo un attimo velocemente così. C'è stata un'interrogazione parlamentare riguardo all'azione della SIAE contro il sito homolaicus.com, l'interrogazione parlamentare firmata dal senatore dei Verdi Mauro Bulgarelli. Ricordiamo brevemente la vicenda: un insegnante di Cesena, Enrico Gavalotti, aveva pubblicato su un suo sito internet amatoriale, lui era un insegnante, un sito no profit, alcune fotografie di dipinti e di opere protette dai diritti d'autore. La SIAE l'aveva multato con 5.000 euro di multa, più o meno, questo non è il dato che ho qua di fronte, e c'è una contestazione rispetto agli articoli che la SIAE ha utilizzato per denunciarlo, dicendo che la SIAE non ha tenuto conto che la stessa legge sul diritto d'autore prevede la massima libertà per l'uso di immagini a scopo didattico, non commerciale e di insegnamento senza finalità di lucro, a patto di citare la fonte. Poi c'è stata ovviamente la legge Urbani che ha un po' modificato le cose, c'è stata comunque questa contestazione. E nella sua lettera all'interrogazione parlamentare Bulgarelli chiede se i ministri non ritengano opportuno esentare gli insegnanti nell'ambito della propria specifica funzione educativa, formativa e didattica dall'osservanza del copyright, quindi esentare questi insegnanti operando essi in un contesto palesemente senza fini di lucro e di alta utilità sociale, e poi soprattutto se non ritengano opportuno introdurre anche in Italia in materia di diritto d'autore il principio del fair use. Quindi insomma questa di SIAE contro homolaicus.com sarà una vicenda che continueremo a seguire anche nelle prossime puntate. Beh, una vicenda molto importante, ha dei risvolti notevoli, per cui sicuramente ne riparleremo. Vai con la sigla. Possiamo sentire la sigla. Cialtroni nello spazio, ogni mercoledì alle 12.40 più o meno sulle frequenze di Radio Onda d'Urto. Ricordiamo l'appuntamento al Circolab, Marco. La domenica pomeriggio dalle 5. Via Fratelli Bandiera. Sì, ci facciamo un aperitivo lì con connessi a internet, ascoltiamo un po' di musica. Prima o poi partiranno tranquillo. Anche dei corsi di Linux. Esatto, a breve partiremo con i corsi di Linux. Volevamo già dare l'annuncio oggi, ma non abbiamo ancora alcune informazioni fondamentali. Comunque www.circolab.net per il Circolab, spazio.circolab.net per la nostra trasmissione, che abbiamo sta un annuncio da fare. Il nostro risorgerà sito. Il nostro sito prima o poi, nel giro di poco. Ale, vuoi qualcosa da aggiungere alla nostra email? No. Ah beh, radio@circolab.net oppure radio@newmerica.org. Ripetilo con un po' più come di l'hai gioia. Come l'hai detto contento, sembra quasi che sia tu sia triste dover rispondere a tutte le email. Ma no, è triste perché la trasmissione è finita. Ciao!